Io c'ho una punta al muro fra 10 minuti. Oh, ma me senti? Io c'ho una punta al muro fra 10 minuti. Forte sta musica, mi piace, andà rubata. Forte, mi piace, andà rubata. Oh, beh, che c'ha con noi? Che stiamo a fare casino con la musica? Oh, io mi sento la musica che mi pare che te sei comprata la fermata. Che c'è sta dita, non famiglia, c'avete la famiglia. Ma vacci te in famiglia, encefalitico, vacci te in famiglia. Io c'ho la famiglia. Sta pure sull'elenco del telefono, famiglia mia. Io c'ho una madre della madre che è una nonna, c'ho un padre che tanto si vede, non si vede, ma mai sì, mortacci tua. E poi c'ho un fratello, capito, famiglia, che è più grosso di me, non parla mai, meno solo. Con me sta sempre alzare le mani. Lui sta tutto il giorno a casa a guardare la televisione, dice che mi devo trovare un'occupazione perché mi va invecchiare così. Ieri mi ha mannato da mia zia. Mi fratello, ieri mi ha mannato da mia zia, sorella di mia madre, perché io c'ho proprio la zia, c'ho proprio la zia completa. Che però mia zia è ricca, si è sposata uno che c'ha la casa piena di sta roba alla macchina. Mi ha detto vada qua mignotta del sito e fatte da due scudi. Sentivo da cinofono a nonna. Sull'auto mi era preso un mar de testa. Stavamo tutti schiacciati, pressurizzati. Come vi usa le buste di plastica del supermercato che come le apri, te partano a 200 all'ora. Ci ho avuto una sfiga, lo sai che mi sono trovata davanti? La signora Orsina, capito chi? Quella del palazzo mio, quella che c'ha il cane dopo, non si muove mai, si muove solo lei, e fa così, ferma, piscia. Cuccia, andiamo a casa, piscia a casa, stronzo, andiamo a casa. Ma la sono trovata qua. Non solo stavamo pressurizzati, pure la faccia sua qua. Senti un po', bella. Guarda che mi sta a schiacciare il mignoletto. Lo sai che sono 2 anni che non mi torna dentro da quando uno per fare retromarcia con la macchina, ma c'è zompato sopra. Ma io mi ho messo in mezzo avvocato, A me mi devono dei sordi, capito? I sordi, oh! Mi sa che te sono zompati pure sulla faccia, stai tutta accartocciata, sai? Quando sono tornata a casa manco c'avevo i sordi. Mia zia non c'era, chissà dove stava, mia nonna non mi ha aperto, se credeva che era mio fratello che gli cambiava voce al citofono fisso proprio. Nonna, so Sonia, fammi salire, nonna, so Sonia. Te credo che non mi ha aperto, l'ultima volta che ci è andato gli ha fatto sparire pure il tecamino con tutto l'ava dentro, il gas di sotto. Cazzato, mi ha menato perché aveva vinta a Roma. Mica è finita qua la storia mia. Mi ha detto di imboccare per casa di quell'amica sua, capito? Quella che sta sempre a cambiare la tinta, che una volta è gialla, una volta è roscia. Questa mi ha aperta la porta alle 5 del pomeriggio, mi è arrivata una folata di fumo in faccia da lici fritte. Ti ancora c'ho l'olio. Mi stava a partire, oh, ti ha quel rotto un culo di tuo fratello che sono 2 anni che mi deve ridere i sordi. Dio te non fasse più vede che io mi ci devo fare mai esce con quei sordi. Quando sono tornata a casa stavo come una frappa dentro all'olio. Ho beccato mio cugino ad 8 anni, mo ci ho letto. Lo sai, stanno tutto il pomeriggio a tra... io sono massacrato le botte. Perché io ieri sono andata a lavorare, famiglia. Dove stai? Io ieri sono andata a lavorare, butta il sangue, porta i sordi, famiglia! Ho capito, famiglia! Questa la conosci sicuro, è quella che c'ha il parrucchiere in piazzetta che si chiama Mega Style che ha la testa di fuori. Io dovrei lavare i capelli ai signore. Però mi convince tanto sta storia, perché io i signore che vanno là, conosco tutte, una per una. Una abita attaccata al palazzo di casa mia. Questa c'ha una casa tutta nera, te giuro, te caghi sotto! Tutta nera, te paura, solo una cosa c'ha la luce sotto. La faccia del marito morto sul tavolo del salone, una faccia grossa così. È vivo, te giuro, quello dentro qua, la foto è vivo, io si muove proprio qua. Perché quando te va là, questa è tutto nero, non vedi un cazzo. Tutto il corridoio nero. Se per caso te stai a camminare, se per caso te cade l'occhio su qua la foto. Cazzo stai a fa' a casa mia? Io sono morto. Te giuro, io se muove proprio qua è vivo! Perché quando te va là, questa è sbroccata, ti schiaffa una caramella di Rossana in bocca con tutta la carta. Magna, che potresti essere via mia, c'è sta la crema dentro, ti fa bene la ossa, magna, magna. Mentre stai a cercare di masticare sto cubetto di cemento armato di Rossana che ti ritrovi nella bocca, se per caso ti ricade l'occhio su qua la foto! Sputa la caramella! La caramella Rossana è mia, sputala! Io saluto pure! Buonasera, ho sputata la caramella, buonasera. Madre di Tania, madre di Tania! Perché ieri mio fratello mi ci ha provato mannata a lavorare da Rosaria, portami tu piotte, che mi ci ha sbattuto dentro! Come son boccata questa mi è zompata addosso, bella! Bella di Rosariuccia tua, vedi quanto ti sei fatta sorca, Pina, Pina, sta a vedere a questa, io a questa cresimata, guarda che mi ritrovo qua, due attatite sorca, senti un po', bella, oh! Parliamo di lavoro, Che non c'è sta tempo da perdere, capito? Ricorda, nella vita non c'è sta mai tempo da perdere. Senti un po', te domani di qua verso le 7, no? Te faccio far pedicura a Pina. A vedi, Pina, che se sei brava Rosariuccia tua lo fa sempre. Senti un po', cerca di venire pure ai 6, va? Te faccio dare una bella pulitina al locale. Oh, DM Caruccia, Te fa mettere mani addosso da nessuno in stacche le palle, Oh, allora ci vediamo domani, Ciao, bella, ciao. Te ha capito chi è Pina Azzossa? Ma ha capito chi è Pina Azzossa? Se cosa del quartiere la conoscono tutti. Ciao bella, come stai? Tua madre che dice? Che dice? Tuo padre che dice? Che fa? Che dice? C'hai tu col cedoio, c'è una sigaretta, c'è un euro, che dici? Che dici? Ma sei una testa di Pina, lo sai che ce può sta? Perché dove sta la testa? Sta de fuori. Pensa nei piedi che non gli si vedono mai che ce può sta. Ma dai, ma che davvero, minimo dei piedi di Pina ci trova la piantagione dei carciofi. Con l'acqua che avanza ci fa cercinare per mia nonna. Ho capito, vado a lavorare per mia nonna! Perché ieri tutti alla fermata dell'auto stavano a dire che è scoppiata la crisi! Com'è che da quando sono Pischella così che sento di sta parola mia madre? Motivi di crisi! Perché io volevo la Barbie da Pischella, hai visto come sta la Barbie nuova? Sta così, sta! Quanto mi piaceva a me a Barbie! Che poi sai che mi fa pensare a me a Barbie, a fatina di carnevale! Che io invece sognavo sempre che mi vestivano da fatina a carnevale, mi mettevano nel letto a dormire e ta! Diventavo una fatina, mi vedevo tutta azzurra e stellette da tutte le parti, a bacchetta così, e io volavo sulla scuola, volavo sul mercato di mia madre, volavo, e tutti facevano, sì, zio! So io, so Sonia, a me guardai mutande, zio! So magica, so la fatina Sonia! Zio, c'ho la bacchetta! Zio, che vuoi la macchina, dietta! Zia, che vuoi la pelliccia? Ta, so la fatina Sonia! So magica! Sto a volà! Sai da che mi ha fatto vestire a me, mio fratello? Da portiere da Roma mi ha fatto vestire! Da portiere da Roma! Son boccata... A scuola delle sore ci stavano le frappe, coriandoli, orzoletto, a buzzicona del banco mio, la vestita da mina, cavarucca di lana di pecora, alta 2 metri. Poi ci stava una, Tania, canacchera qua, cortoro. Io so Spagna, de Capri, de Spagna, mia madre mi ha vestita da spagnola, te incazza, spagnola. Stava uno, tutto bianco e nero, 3 pulsanti in testa, la fascia tutta bianca, sembrava che aveva vomitato da 2 minuti. A me piaceva uguale, io no, io da portiere da Roma. Son boccata a scuola, tutti, Sonia si è vestita a sta palla. Mo parla palla, oh. Sono scappata a casa, sono fatta 2000 chilometri. Fatemi cambiare la mascherina, fatemi cambiare. Sono Sonia. Ma chi è? Ma svegliato. Via su. Fatemi cambiare la mascherina. Ma svegliato, via su. Ma svegliato. Che vuoi? Te vuoi cambiare la mascherina? Zitta, mette della nunfiata. Mi ha fatto mettere tutta nera e zampe dei fori bianche. Questo è il fischietto, questa è la mascherina tua. Cori, che sei pure un arbitro, sei pure cornuta. Cori, va a scuola. Sono andata a fischiare. Te vorrei sapere che io che ci trovo dentro al frigo di casa mia? A crisi ci trovo! È tutto vuoto il frigo di casa mia, tutto bianco e vuoto! Te vuoi il latte? Il latte ti fa scaduto! Te vorrei sapere a me mia madre dove mi ha comprata la Barbie? A bancarella del pechinese sotto casa mi ha comprata! Hai visto la Barbie è tutta bionda? Questa era viola, rasata, coi buchi! E dette da Barbie nuova, hai visto come sono? Yeah, gli arrivano qua! A questa gli arrivavano! Gli dico ma... Ma che cazzo di Barbie mi ha comprato? È tutta storta, la testa rasata, hai detto gli arrivano qua, ma... Oh, sta Barbie allattato, vabbè, poi c'è la crisi. E vai la canzoncina di mia madre, crisi per magnà, crisi per bere, crisi per sci, crisi per comprare MS Mild, crisi fra mio padre e mia madre, che tanto mio padre si vede, non si vede, ma meglio così, mortacci sua. Questa la faccio con questo e l'altra la faccio. Turn it up. Guardo dalla finestra il muro del palazzo di fronte per capire che tempo fa, qua la mattina piovicicava tera. Me bevo un caffè, vado dal corpo, un bagno, me insapono, mi asciugo e me ne vado a fanculo a lavorare tutti i giorni. Andata e ritorno sulla circonvallazione, infine andiata, inchiodata al volante, alzo il volume dalla musica. Che giornate sosterminate in mezzo a tutte quelle voci di persone del lavoro infilzate nelle orecchie. File, scontrini, telefonate, cazzate che te perforano il cervello, le costole, il fegato, la milza. Non te lamenta, non vedi quello che gli succede al mondo, c'è da mettersi le mani nei capelli che ha forfora da smog d'inquinamento. Non te lamentate, devi adattare, tocca fa pippa, fa se larga ammozzicate. Ma c'è una sigaretta, uno ha la macchina di fronte alla mia, se sta a scaccolare, folle, col telefonino a sinistra, quell'altra parla da sola. E chi è che non c'è parassato? Pure io mi sono parata a fare il ventriloco per non far meno da, che tanto nessuno si guarda, stiamo come in casa nell'autosventura. Ci manca solo un fornelletto, se famo due a parte camino al ritmo de Twingo, micro, smirto, bango, bingo, bongo. Panda in estinzione che mi ha imprestato mio cognato, che dergi cristalli fanno un rumore che pare imbarrito di una coppia d'elefanti. All'improvviso mi sono sentito una fitta e mi è scappato tutto un botto di cacà. E do passo, che faccio? Manco una d'ambulanza per farsi largo una mischia, mo deraio, me sbutto, spacco il card e lei. A Freccia dice uscita per casaletto. Ci sarà un cesso a casaletto. Ci passo tutti i giorni da 20 anni. C'ho i sudori freddi, c'è scritto snack. Bar si è staccato. Scusi, c'è un bagno di sudore? Nata va a lavare le case vostre, qua si è rotto lo sciacquone, ci si può andare al gabinetto. A mia nonna una volta gli ho menato, a questa non l'ho fatto perché se dicevo me cacavo sotto. Camminavo così, mi potevo uscire da un momento all'altro, rimonto in macchina, grondo de sudore, dal finestrino tutte quelle case. Se allunghi il braccio te pare di toccarle, pensa ai bagni che ci stanno. Non ci pensare, c'è la radio, distraete, una bomba, una strage, sfrattato se da fuoco, Pavarotti c'ha per tosse. Se prima eravamo in quattro a ballare l'alligalli, mo la faccio sul sedile, ma che gli dico a mio cognato? Ammazza, bell'inizio di giornata, sono già morto, distrutto. E pensa ai tuoi del pomeriggio, quando ti sei mangiato quei 7-8 tramezzini dalla mensa, che la maionese è fatta in casa. In casa di chi? Che poi te vengono gli abbiocchi, che me butterei per terra, t'appennichi sulla scrivania col collo storto. Te esce il filetto di saliva, te fai quei sogni del secondo, quei cose che dici, oddio, tu sto a camera mia, tu sto, non vi riconosco. E se mi accosta la faccio nel cespuglio, mi riparo con lo sportello, mi nascondo tra i fratti dei preservativi risalenti al 78, cagate e siccate d'animali. Che cazzo di vita, arsacci appesi a uno stronzo per andare a lavorare, guai chi me lo tocca sto supplizio. Che se mi perdo il lavoro mi potrei sparare, che via a 50 anni vivo ancora con mia madre. Non fuma che te mori, non sta sudata la corrente, mastica quando mangi su, te stroffi soffocato. Ma ce me vai a messa, c'è una faccia che non mi piace per niente. Mo se facevi il commerciante, stavi pieno di sordi, vorrei strangolare, stridolare, ma a me sforzo. Mi guardo intorno, leggo Porta Portese, che è tutta zona centro, il Pinestrino, il Tiburtino, una stanza, 500 euro al nero in subaffitto. Vai, è verde, porca zozza, l'ercia trucidata, perché rallentano quando piove? Non l'ho mai capito. Zitto, zitto, pio guada, arrivo nel parcheggio, una prateria di macchine. Non mi ricordo mai dove metta la mia 8 ore prima. Mi confondo tra zona A, B, C, D, degli mortacci loro. E il guardiano mi saluta, gli rispondo, mi sa che è manichino. Nomo finto, va a pile. Mi sei incollata la schiena del a sentire del sudore, mi sta più al cervello. A pensare che famo tutto questo a fasse vecchi per 2 milioni al mese. Oh, non mi piagni addosso. Io voglio essere positivo, che devi fare? Tra 9 anni e 7 mesi mi danno la pensione. Me ne vado su una spiaggia tropicana, non ci starò in città con 2 amici spellacchiati, respira a carbonchio. Sgozzasse sui falli dalla partita. Dio, fammi arrivare cesso, cori! Chiudi lo sportello, sbrigate! Appanicato in bocca alla scala di servizio, vedo il cesso, mi inizia a sbottonà. Righini! E il direttore, porca zozza, mi devo fermare. Righini, scusi, ma lei va in ferie a Natale o Capodanno? A figlio della mignotta! A pezzo de merda! È il 30 luglio! Ma sto a cagassotto! Son bagno de sudore! E mi chiedi de ferie de Natale! De vacanze de Capodanno! Ma fa morì ammazzato! A te tu sì o no, io ho detto niente, mi è rimasto tutto qua! Stavo come incagata, Alessi! Un minuto solo! Ma lontano, a passo lento, piango dentro! In bocco al cesso, piegato in due di sofferenza, ma appoggio una maglia in un maretto! Ma la son fatta tutta addosso, dentro le mutande! È stata una frazione di secondo! E sono rimasto muto, zitto, fermo! Il 3 di luglio! Nel terzo millennio, a 8:45 di mattina. Lascio perdere, lascio fa, ho i vertigini, mi voglio impegnare. C'ho la fame nervosa, sto sempre seduta, non riesco a bruciare. Cresce, non sa crescere, mi padre, mi madre, chi voti? Per chi voti? Non cambia niente, cambia tutto, è tutto uguale. Te voglio bene, ma che te credevi da me? È un problema tuo. La carne te la magni, te la magni? Aperitivo, un doppio whisky, non so da pistacchia, dopo cena smetto di fumare, pure io ci sto a provare. Prima di dormire pensa a mia nonna che non l'andavo mai a trovare. Ma è come se te dimentichi tutto, te puoi scordare, te puoi salvare. Piate in volta, Renault, in moment, in aspirina, B1, B2, tutto il comprensorio, il G8, Italia 1, delle più, magna la minestra. Sto a masticare, 3, ho sgozzamento, ucciso dal cardo, la psicosi, il terrorismo. Sta squillà. Rispondo? Non rispondo? Esci, non esci, donnamo, che famo? Se andiamo a bere una cosa, per quanti? Quello c'ha la coca. No, vado a dormire, sono stanca, vado a dormire. 2 piazze, una piazza, un serciato, un ingombro, un supplizio. Dormo come in treno, non dormo, mi sveglio per fa pipì, mi sveglio per i problemi, mi sveglio 3 volte a notte. Piate l'enne, l'exo, dal lancio, iodo, sa nel tartaro, spazzolino, lente a contatto, namo che sono pronta, namo che sto a far tardi. Non mi scordo niente, non è che potevo risalire, è un periodo che mi ricordo più niente. E che c'è da ricordare? Che c'è da ricordare, da cercare, da magnare, da pensare, succede tutto sopra le teste. Noi non siamo niente tra tutti sti intrecci dei capelli dei persone, una festa uno mi fa, ok, vuoi un tiro? Sai, i miei figli sono stupendi, ok? Siamo noi, siamo ora, siamo qui, ok? Non aver paura se uno ti chiede le coccole, ok? Io a 46 anni ho capito una cosa, prendi quello che ti offre la vita, approfittare, abuse, ok? Me voleva da un bacio, con qua la lingua d'aiuzzata de ferite, de tutte le storie che siamo che ce rovesciamo addosso, c'ho gli attacchi di violenza, a fatica me controllo, non voglio fare la fila per non sfiorare l'umani come me. Con quelle facce segnate di pazzia che siamo tutti ingabbiati dal sistema, tu ci scherzi, tu ci ridi. Certe mattine ti svegli fresco come l'ova e certi giorni devi dentro ad ammazzare quello che vicino, se beve il cappuccino mi fa strippa pure come mastica la gente. Sono anima in piena, non trovo pace, le pulsioni sessuali e fantasie che te ce fai con le persone schiacciate contro il muro della stanza come zanzare morte spiaccicate a lottare. Ciechi come siamo dentro il corpo che si storce, oh! Pensa al lavoro, che è la prima cosa, indipendenza, concentrate. Non te fa capire, quello che tratti male oggi te diventa il capo domani. Non te fa capire, campi 100 anni. So cambiati i tempi, il figlio è il banco di prova. L'uomo si sente escluso, la donna si sente trascurata, il figlio piagne. Oggi è giovedì, non c'ho la Filippina, fa l'amore, non è più la stessa cosa. Se manca la passione, entra a letto, non è sano. O dicono tutti, pure i giornali, i telegiornali. I giornalisti! O dicono sempre! Tocca farsi analisi, non c'è da scherzare. Intolleranza alimentare, merdicina, alternativa, il biologico si è mollato, i prugni dovindoli. E namo, e dai, sono distrutta, sono arrivata, sono stravolta, sono sconvolta, sono sfinita. C'ho mar de testa, de piedi, sto sempre al telefono, devo pagare gas, i vestiti, il cambio di stagione, umidità. C'ho mancanza di sonno, di ferro, di potassio, mi brucia lo stomaco, mi rimane tutto qua. Sono anemica, sono pallida, magna de banane, bevita spremuta. C'ho la nevralgia, c'ho l'ansia, me sto a far presbite, c'ho due depressione. Vorrei prendere le sembianze di un uccello, un giorno solo, 2 minuti, apri la letta e andammene lontano. Me voglio salvà, me voglio salvà. Grazie, ciao, vi volevo dedicare una poesia. Poesia, si intitola Flash. Certe volte la pizzetta alle 2 la digerisco.